Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 14 abbracciando in Iconio la fede molti e giudei, e gentili. Gli ebrei muovono tumulto contro gli apostoli, i quali fuggono a Listra, dove Paolo risana un uomo zoppo dall'utero della madre. A malapena contengono il popolo, che voleva perciò offrire ad essi sacrificio, come a dei, ma sopraggiunti i giudei, da questi è mossa a tumulto la moltitudine. Paolo è lapidato, e lasciato per morto. Dopo che si fu riavuto tanto egli, che Barnaba vanno in varg luoghi animando i discepoli, e ordinando dei sacerdoti, e tornano in Antiochia. Avvenne similmente in Iconio, che entrarono insieme nella sinagoga dei giudei, e ragionarono di modo, che una gran moltitudine di giudei, e di greci credette. Ma i giudei, che si rimasero increduli, miser su, e irritarono gli animi dei gentili contro dei fratelli. Si fermaron però molto tempo, predicando liberamente affidati nel Signore, il quale confermava la parola della sua grazia, concedendo, che segni, e prodig fossero per le loro mani operati. E si divise il popolo della città, e alcuni erano per giudei, altri per gli apostoli. Ma sollevatisi i gentili, e giudei con i loro capi, a fine di oltraggiarli, e lapidarli, considerata la cosa, si rifugiarono per le città della Licaonia, Listra, e Derbe, e per tutto il paese all'intorno, e quivi si stavano evangelizzando. Or in Listra trovavasi un uomo impotente nelle gambe, stroppiato fin dall'utero della madre, il quale non si era mai mosso. Questi stette a sentire i ragionamenti di Paolo. Il quale avendolo mirato, e vedendo che aveva fede d'esser salvato, ad alta voce disse, «Alzati ritto tu tuoi piedi!» E saltò su, e camminava. Ma le turbe veduto quello, che aveva fatto Paolo, alzaron la voce, dicendo nel linguaggio di Licaonia, «Sono, discesi a noi degli dei in sembianza di uomini!» E davano a Barnaba il nome di Giove, e quel di Mercurio a Paolo, perché questi era, che portava la parola, e di più il sacerdote di Giove, il quale era all'entrare della città, condotti dectori con le corone dinanzi alle porte, voleva insieme con le turbe far sacrificio. La qualcosa udita avendo gli apostoli Barnaba e Paolo, stracciatesi le tonache, saltarono in mezzo alle turbe, gridando, e dicendo, «O uomini, perché fate voi questo? Anche noi siamo uomini mortali simili a voi, che vi predichiamo di rivolgervi da queste vanità a Dio vivo, che fece il cielo, e la terra, e il mare, e tutto quello, che è in essi. Il quale nelle età passate permise, che tutte le genti camminassero le loro vie. Sebbene non lasciò se medesimo senza testimonianza, facendo beneficio, dando dal cielo le piogge, e le stagioni fruttifere, dando in abbondanza il nutrimento, e la letizia ab nostri cuori. E con dir tali cose appena trattennero il popolo dal fare ad essi sacrificio. Ma sopraggiunscro da Antiochia, e da Iconio alcuni giudei, e svolsero la moltitudine, e lapidato Paolo lo strascinarono fuori della città, giudicando che egli fosse morto. Ma avendolo attorniato i discepoli, si alzò, ed entrò in città, e il di seguente si partì con Barnaba per Derbe. E avendo annunziato il Vangelo a quella città, e fattivi molti discepoli, ritornarono a Listra, e a Iconio, e ad Antiochia, confortando le anime dei discepoli, e ammonendoli a star fermi nella fede, e dicendo, come al regno di Dio arrivar dobbiamo per via di molte tribolazioni. E avendo ordinato dei sacerdoti per essi in ciascheduna chiesa, gli raccomandarono al Signore, nel quale avevano creduto. E scorsa la Pisidia, giunsero nella Panfilia, e annunziata la parola del Signore in Perge, scesero ad Attalia, e di lì navigarono ad Antiochia, di dove erano stati posti nelle mani della grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. E al primo loro arrivo, adunata la chiesa, raccontarono quanto grandi cose avesse fatto Dio con essi, e come avesse aperto alle genti la porta della fede. E si trattener non poco tempo con i discepoli. Note 14,1. Entrarono insieme nella sinagoga e ci Paolo, e Barnaba con i compagni, gli impero che è certo, che Timoteo seguiva l'Apostolo Paolo in questo viaggio. 2. Timot. 3. Die. 2. 14,2. Ma i giudei. Miser su. Il greco può tradursi corruppero, ovvero indussero con male arti. 14,3. Si fermaron però molto tempo. Affidati nel Signore, e ci lasciandosi guidare da Dio, non pensando a salvare la vita, ma a fare la sua volontà, non ritirandosi per cagione della persecuzione, se non quando Dio faceva loro conoscere, che il trattenersi più lungamente in un luogo non era più utile al bene delle anime, e non ad altro avrebbe servito, che a far loro perdere la vita, la quale potevano altrove impiegare con frutto. 14,8. Vedendo che avea fede e ci conoscendo con profetico spirito nel cuore di quest'uomo un vivo desiderio della salute non tanto corporale, quanto dell'anima. 14,10. Nel linguaggio di Licaonia. Probabilmente questo era un dialetto della lingua greca, ma assai corrotto. 14,11. E davano a Barnaba il nome di Giove, Eci. Forse perché era di grande statura, laddove S. Paolo era piccolo, e di poca presenza, onde il Grisostomo lo chiama un uomo di 3 cubiti, che sormonta i cieli. E vedevano che Barnaba se ne stava con gravità tacendo, mentre Paolo faceva quasi da suo messaggero, come fingevano i gentili, che facesse Mercurio a Giove. Mercurio era anche il dio della eloquenza, e l'eloquenza vera, forte, piena di spirito, e di maestà non mancava a S. Paolo, e ne fanno fede le sue lettere, le quali erano ammirate, come dice il Grisostomo, e dagli ebrei, e da pagani. 14,12. Il qual era all'entrar della città. Vuol dire che avea tempio, e altare nei sobborghi. Condotti dei tori con le corone. Tori incoronati secondo il rito dei pagani sacrifici. Dinanzi alle porte, Eci. Si può intendere benissimo dinanzi alle porte della città, supponendo che qui vi fossero gli apostoli a predicare, e non fa alcuna difficoltà il dirsi nel versetto 18, che Paolo fu strascinato fuori della città, perché queste cose non avvennero tutte in un tempo, come potrà riconoscere chiunque consideri tutta la serie della storia, non essendo possibile che il popolo da un estremo affetto e riverenza passasse in un punto ad una estrema crudeltà. E certamente S. Luca così parco e ristretto non a caso ha detto che un tempio di Giove era fuori di Listra. 14,13. Stracciatisi le tonache, Eci. Abbiamo già veduto che ciò solea farsi dagli ebrei nell'udire qualche parola di bestemmia, or qui vedevano gli apostoli l'incredibile cecità degli idolatri, i quali non conoscendo più il loro creatore, erano pronti ad adorare uomini mortali, e simili a loro. 14,14. A Dio vivo, che fece il cielo, Eci. Questo attributo di vivo è dato qui a Dio per contrapporlo agli dei senza anima, e senza vita, fatti di legno, o di metallo, adorati dagli idolatri, e l'altro attributo di creatore del cielo, e ci distingue da quelli molto bene il vero, e solo Dio. 14,15. Permise che tutte le genti camminassero e ci le abbandonò ai desideri del corrotto lor cuore, di la qualcosa non vuole intendersi, come se Dio le avesse lasciate prive di ogni aiuto per rivolgersi alla verità, e alla virtù. Impero che dimostrerà ben l'Apostolo nella Epistola a Romani, che quantunque il Dio non desse alle nazioni né legge scritta, né profeti, né molte altre grazie, delle quali fu liberale col popolo ebreo, nulla di meno sono elle noi inescusabili, perché ebber da lui la legge naturale, e il sentimento interiore, col quale distinguere il bene dal male, e il male seguirono volontariamente, e liberamente, e soprattutto, perché dalle stesse cose create potendo facilmente comprendere l'esistenza del creatore, e i propri doveri in verso di lui, trasportarono l'onore di lui alla creatura, irritando Dio con le loro vituperevoli superstizioni. 14,16. Sebbene non lasciò se medesimo senza testimonianza. Non ho stimato di dover cambiare nella traduzione questa frase sommamente espressiva e piena di energia. Lo scrittore dell'opera della vocazione delle genti mirabilmente illustra il detto dell'apostolo, dicendo: "A benché con special cura e indulgenza di Dio sia stato eletto Israele. Nulla di meno a niun genere di uomini sottrasse Dio i doni di sua bontà in guisa, che con qualche significanza non li avvisasse a conoscerlo e a temerlo. Fu data mai sempre a tutti gli uomini una certa misura della dottrina celeste, la quale benché di più parca e occulta grazia, bastava però secondo i giudizi del Signore ad alcuni per rimedio, a tutti per testimonianza." 14,18. Lapidato Paolo. Parla di questo fatto l'Apostolo. 2 Cor 11,25. 14,19. Si alzò, ed entrò in città, e ci rendendogli Dio in un punto la sanità, e le forze per poter continuare a operare, e patire per lui. I discepoli, che lo coprirono dal furore del popolo, sono i giudei e i proseliti da lui convertiti a Listra. Per Derbe. Città anch'essa della Licaonia. 14,21. Come al regno di Dio arrivar dobbiamo eci. Questo è tutto quello che promettevano gli apostoli a coloro, a quali annunziavano il Vangelo, e la cosa parlava da sé in che tempi, né quali l'esser cristiano era lo stesso, che viver sempre o sofferendo, o temendo la persecuzione. Ma col cangiarsi dei tempi non si è cangiata questa verità, perché sarà sempre vero, che chiunque vorrà vivere santamente in Cristo Gesù, patirà la persecuzione, secondo la parola del medesimo apostolo. 14,22. E avendo ordinato det sacerdoti eci. La voce presbiteri si prende per significare anche i vescovi, e lo stesso è della voce sacerdoti in latino, ed è credibile che dec vescovi ed ec sacerdoti eleggessero in queste città, i quali coltivassero nella fede i nuovi cristiani, e arricchissero la Chiesa di nuove conquiste. 14,24. Ad Attalia. Città marittima della Panfilia. 14,25. Ad Antiochia, di dove erano stati posti e ci intende cum discipulis. Antiochia della Siria, di dove avevano cominciato il loro viaggio, essendo stati prima con digiuni e orazioni raccomandati alla provvidenza del Signore, per cui intraprendevano un'opera piena di fatiche e di pericoli, opera che essi avevano sì ben fornita. Vedi Act 13:3. 14,26. Quanto grandi cose avesse fatto Dio con essi, eci. Non ritengono per sé la gloria dell'avere introdotto nella Chiesa tanti gentili, ma la rifondono in Dio, dalla grazia del quale riconoscono tutto quello che ha operato di bene la loro predicazione, perché sapevano che se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano quelli che l'edificano. PS 126.